canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, KK. E beh, Fiore, su che andiamo? Antonio. Attenzione 10, K. Chi è avanti? Avanti su canale 10. Abbasauke. Ega sì. Abbasauke là. Luca, tu sei? Cazzo, sta gente su, attenzione, canale 20, boh. Anche questo non scherza a colpi, Chi è mala? Vabbè, andò. Gappa, ti ha detto che la cosa è diversa? Monello. Che vuoi fare? Uscire, non ci devo ora tutti adesso, con l'internauta. Hola, chicos. Oh, il manco si muove, stazionaria. Ega.